giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchessi. I giudici che hanno condannato Vanni Mario e Lotti Giancarlo hanno scritto nella motivazione che dalle risultanze dibattimentali di quel processo erano emersi elementi interessanti che portavano alla presenza, molto verosimile per loro, di un mandante che commissionava i delitti. Michele Giuttari è un super poliziotto. Fino al 2002 guida la squadra mobile di Firenze. Da 7 mesi è responsabile del gruppo investigativo dei delitti seriali, cioè il pool antimostro di Firenze. Giuttari possiede un'arma straordinaria per un poliziotto. Il suo fiuto lo porta a sentire cose che non tutti riescono subito ad avvertire. Giuttari ne è convinto da sempre. Dietro agli omicidi del mostro di Firenze si celano persone insospettabili, coperte da un alone di mistero. L'ultima inchiesta sui delitti riconducibili al mostro cela dunque i volti dei veri mandanti, quelli che per lunghi anni hanno vissuto alla luce del sole, senza che nessuno potesse conservare sul loro conto sospetto alcuno. Ma un giallo, per essere raccontato, ha bisogno di un elemento posto quasi all'inizio della narrazione, che poi scompare immediatamente, proprio come un soffio di vento, e poi riappare e alla fine si trasforma nella probabile soluzione del caso. Fissate bene nella memoria questa data, 22 febbraio 1998. Pietro Paciani, l'uomo che i tribunali considerano uno della banda dei killer responsabili di omicidi efferati, viene trovato morto nella sua casa di Mercatale, Val di Pesa, apparentemente per un infarto. Passano 3 anni, nel marzo 2001, però la procura di Firenze apre un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi di reato di omicidio. Attraverso le intuizioni del super poliziotto Michele Giuttari, le indagini sul mostro di Firenze riprendono vigore. Indagando tra misteri e sette esoteriche, gli investigatori incrociano una morte rimasta oscura, quella di Francesco Narducci, gastroenterologo di Foligno, il racconto di Ubaldo Cianciulli da Firenze. Anche la nuova inchiesta, quella sui mandanti degli 8 duplici delitti, è avvolta da un grande mistero, al pari delle 16 giovani morti. Gli inquirenti hanno preso linfa per le nuove indagini dalla morte del medico Francesco Narducci di Perugia, morto o suicida, per disgrazia, ucciso e trovato con mani e piedi legati. Sembra sempre più certo che il corpo, rinvenuto nel lago Trattimeno il 13 ottobre 1985, 35 giorni dopo, all'ultimo duplice delitto, non fosse, come creduto per 16 anni, quello del medico Narducci, che in realtà era morto 4 giorni prima. Anche sulla sua bara, che è stata dissepolta, c'era quella data, 9 ottobre 1985. Addirittura sembra che sul suo certificato di morte la data sia stata chiaramente modificata per un errore o per una contraffazione. La morte del medico Narducci ha portato gli inquirenti fiorentini e perugini a far luce su 4 persone, iscrivendole per la prima volta nel registro degli indagati in qualità di presunti mandanti dei delitti del mostro, anzi della banda di mostri, poiché un altro dei pochi elementi chiari è che chi ha agito non era solo. Un farmacista di San Casciano Val di Pesa, Francesco Calamandrei, che conosceva il collega Narducci, e Achille Sertoli, un dermatologo, insieme a loro altri 2 nomi che gli inquirenti hanno preferito non rivelare, tutti hanno respinto ogni accusa. Chi ha seguito le morti delle coppiette sin dal 1968 è sicuro che entro pochi mesi ci dovrebbero essere nuove importanti rivelazioni, dopo 36 anni di indagini sbagliate, contorte, di infiniti dubbi e fatti misteriosi, tutti ad iniziare dalle vittime, dai loro familiari, da chi è stato suo malgrado protagonista in queste vicende, hanno diritto di sapere chi ha armato la beretta calibro 22 e chi ha ordinato quelle atroci 16 morti. L'ultima pista sui delitti del mostro di Firenze porta ad una villa alle porte del capoluogo toscano. In quel luogo isolato si cela la presunta verità. Una casa dove Francesco Narducci, il medico di Perugia annegato nel lago Trasimeno, avrebbe custodito i macabri reperti di alcune vittime. Giorgio Sgherri, giornalista specializzato nella cronaca nera fiorentina. Lui ha seguito le vicende dei delitti del mostro fin dal primo duplice omicidio del 68. Gli abbiamo chiesto se esistono davvero i mandanti dei duplici delitti, oppure se tutti i fatti sono attribuibili a Pietro Paciani, Mario Vanni, Giancarlo Lotti, gli inseparabili compagni di merenda. No, sicuramente i mandanti esistono, anche se Per il momento polizia e magistratura stentano a trovare una soluzione a questo problema che li assilla ormai dal 2001. È una vicenda che strana, una vicenda che presenta veramente delle storie, delle storiacce più che storie, perché guarda caso soltanto adesso si viene a sapere che il medico di Perugia, dato per morto per disgrazia, sarebbe stato invece ucciso, ma inoltre si viene a sapere che è sospettato di essere stato uno dei mandanti e addirittura uno degli esecutori dei delitti. Perché? Perché gli investigatori hanno stabilito che tra i due delitti dell'81, quello di Calenzano e Scandicci, sono stati commessi sulle donne dei tagli diversi da quelli commessi sugli altri omicidi avvenuti nell'84. Quindi, secondo gli investigatori, ci sarebbero due mani diverse, una esperta nel 1981 e l'altra, quella nell'84, molto, molto più approssimativa. Ma questi quattro personaggi che sono stati iscritti dalla Procura di Firenze nel registro degli indagati in qualità di mandante, sono i primi che appaiono in questo registro, sono secondo te dei nomi credibili? Per il momento noi sappiamo solo che ci sono alcuni personaggi iscritti nel libro degli indagati, ma non sappiamo di preciso cosa gli viene imputato e cosa gli viene contestato, perché le persone chiamate in causa respingono decisamente ogni accusa. Certo è che in questo momento l'inchiesta è una svolta e sicuramente è una svolta decisiva. Credo che entro brevissimo tempo, entro nell'aprile o in maggio di quest'anno, l'inchiesta sul mostro di Firenze si sarà chiusa. La dovranno chiudere in un modo o in un altro. Questo è certo. Così non è possibile più andare avanti. L'attuale sviluppo dell'inchiesta sui delitti del mostro di Firenze prende il via da un interrogatorio dell'avvocato Pietro Fioravanti, il legale di Pietro Pacciani. Nelle scorse settimane viene ascoltato dalla magistratura come persona informata sui fatti. L'avvocato si trova dunque davanti ad un sostituto procuratore della Repubblica, un esperto, Minini, e lui racconta la sua versione. Poco prima di morire, Pietro Pacciani gli aveva parlato di un medico, di un farmacista, come i veri colpevoli degli omicidi del mostro. Ma attenzione, dopo quell'interrogatorio l'avvocato Pietro Fioravanti allarga il tiro e dice: intorno ai delitti del cosiddetto mostro di Firenze, o meglio dei cosiddetti mostri di Firenze, ci sono tanti morti di cui potrei fare i nomi, 15 dei quali sono morti ammazzati. Poi Fioravanti rivela: i mandanti sono gli stessi esecutori. Sì, perché chi voleva uccidere non ha dato l'incarico a terze persone, ma ha ucciso. Ma il punto centrale del suo racconto resta la sua convinzione, maturata nel tempo. Pietro Pacciani non è morto d'infarto, ma è stato ucciso dagli stessi mandanti. Un mistero inserito in un altro mistero più grande. Pacciani, per me, la logica delle cose, io l'ho visto il 21 sera di febbraio 98, stava benissimo. Loro dicono infarto o avvelenamento da, non hanno trovato assolutamente niente. Pacciani è stato ucciso in un modo in cui si può uccidere una persona senza far scaturire chiara la causa della morte. Pacciani è stato ucciso. Pacciani diceva: a me vogliono far fuori, cioè mi vogliono far fuori. Lo diceva con altre frasi. Dice il povero agnolluccio, tutte frasi un po' stereotipate alla toscana, eccetera. Però dice: mi vogliono far fuori.